Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da marzo a luglio del 1820. Da Cadice a Napoli, rivolta dei militari anche nel Regno delle Due Sicilie, sventola la bandiera carbonara. Ferdinando cede alla piazza e all'esercito e re promulga una costituzione, preoccupate le grandi potenze. Londra si chiude il processo per i cospiratori di Cato Street, impiccati e poi decapitati. Un chimico tedesco denuncia le adulterazioni alimentari, paura tra i consumatori britannici. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. L'eco dell'ammutinamento dell'esercito in Spagna non ha tardato a farsi sentire in Italia, dove la carboneria unita a settori dell'esercito ha preso coraggio. Il Regno delle Due Sicilie ora ha una costituzione. Tutto è iniziato a Nola e ad Avellino, con la rivolta guidata da due ufficiali di cavalleria, Michele Morelli e Giuseppe Silvati. Alla testa dei loro reparti hanno marciato su Napoli esponendo il vessillo carbonaro azzurro, rosso e nero. L'arrivo della notizia nella capitale del regno ha acceso l'insurrezione. La guarnigione locale, guidata dall'ex generale murattiano Guglielmo Pepe, è insorta. A testimonianza delle velleità non proprio rivoluzionarie c'è la parola d'ordine che si sono dati: viva il re e la Costituzione di Spagna. I due eserciti si sono congiunti a Napoli l'8 luglio e cinque giorni dopo Sua Maestà ha aderito alle loro richieste promulgando una carta fondamentale basata su quella di Cadice. Ma nel regno le cose non vanno così tranquille. La notizia è arrivata in un lampo a Messina e poi a Palermo, dove sono scoppiati disordini. Ai colori della coccarda carbonara i siciliani hanno voluto aggiungere il giallo, simbolo dell'autonomia. Vogliono almeno una parziale indipendenza dell'isola, vogliono che Palermo torni ad avere il rango di capitale. A Napoli tutto questo viene visto con sospetto, così come guardano con sospetto a queste vicende anche le grandi potenze, che sarebbero pronte a intervenire. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Si è chiuso a Londra il processo contro i cosiddetti cospiratori di Cato Street, un gruppo di rivoluzionari che, come vi abbiamo raccontato nella precedente edizione, aveva progettato l'assassinio di tutti i membri del governo. Coloro che hanno partecipato al complotto, tra cui il capo Arthur Thistlewood, sono stati condannati all'impiccagione e allo squartamento, pena poi convertita in una non molto diversa: impiccagione e poi decapitazione. I consumatori inglesi intanto sono terrorizzati da quello che si possono trovare sul piatto dopo la pubblicazione di un trattato sulle adulterazioni del cibo e i veleni della cucina da parte del chimico Frederick Accum. Secondo Accum, al porto viene aggiunto super tartarato di potassio, mandorle amare nel vino, sali di piombo e rame per dare un colore migliore ai dolci e poi solfato di ferro nella birra e allume nel pane. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Visitate il nostro blog, visitate la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento là, o fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.